acceso sul 10 e non c'era, li ho beccato solo perché ho fatto un giro di canali, li ho fatti al contrario, no? Tornando indietro il canale, al 12 li ho beccato. Venga. Bene, bene, pronti siamo? Ancora già è chitto, non c'è un problema. Ancora già è chitto. Giulio, sei qua? Sì, sono qua. Ok, allora quella radio che hai tu, io l'ho comprata nuova. L'ho comprata nuova, sai se è nuova? Era un residuo di magazzino che aveva, che allora aveva Guidetti, che adesso non c'è più. Ok, nuova quella radio. Nuova, con l'M60 nuovo. Dopo un po' di tempo io avevo preso un'altra radio che era il C80 e Franco stava cercando una radio come questa. Ho detto prendi il C80, 440 lasciala a me, prendi il C80, 440 lascia a me, sicuramente mi si è attaccato mentre lo vuoi, poi ho detto vabbè fa una cosa, prendi il 440, e l'ho dato a lui, capito? Quindi l'ho comprata nuova quella radio, forse una delle ultime che avevo comprato nuova, l'avevo trovata nuova, proprio un residuo di magazzino, non era mai stata usata, però era molto ferma, capito? Infatti dopo un annetto circa che io ce l'avevo, mi ha fatto quel difetto. Guidetti aveva già chiuso perché infatti stava svendendo tutto quello che aveva in magazzino e quindi la mandai da Bianconi. Quando me l'aveva riparata Bianconi, l'avevo data a Franco, capite? L'avevo data a Franco. Tutto qua, quindi so che è nuova perfettamente, come questa che ho io, è nuovissima. E tra l'altro era la mia, questa era la mia, che io diedi molti anni fa a Roberto. Roberto però l'ha usata poco, la usava poco, poi se ne aveva preso un'altra, non lo so, da due ne aveva fatto una, questa era sempre da parte, e quando me l'ha data praticamente aveva già i puntini, capito? E anche questo è lo stesso problema, mancavano le tensioni delle voci ai condensatori e quindi l'ho dovuta mandare di nuovo, oramai sono abbonato con Bianconi, io con il 440, capito? Tutto qua. E niente, ora è passato un po' di tempo, ancora sta andando bene, ma spero che vada sempre bene, ma con l'andare del tempo il difetto lo rifà sicuramente. Poi io ho il 430, quindi userò il 430, sicuramente non lo riparerò più, perché alla fine ha già due riparazioni, basta così, cioè non ne vale sicuramente più la pena, ma te lo sta appena facendo, mettitela a posto e tienitela, intanto non è che te la devi vendere, te la rimetti a posto, è revisionata, è tutta in ordine, ti dura un sacco di anni, quindi qual è il problema? Ciao Marco, vai per Giulio. Ciao Giulio, dai, ho acceso adesso, vabbè, ho fatto un po' di riposino al pomeriggio, così. Bene, quindi Claudio, come ti ho mandato un messaggio di Pomponio, il fratello c'ha la febbre, la sorella non so se lavori, no, non ci può stare la sorella, ci deve stare lui, è costretto a stare lì, dai. Sì, ma mi pare che l'avesse già accennato l'altra volta, Marco, ciao, buonasera, che appunto aveva problema di orario, capito? Quindi io non gli ho detto niente perché non aveva già accennato, tutto qua. Va bene, avanti Giulio. Ok, scusate che sto mangiando un biscotto e la voce viene un po'. Sì, qua, ma è così, ripeto, indubbiamente la radio vale la pena ripararla, questo non ci sono dubbi. Però bisogna vedere con quale spirito mi alzo la mattina, quando succederà quello che non funziona proprio più. Per cui staremo a vedere. Una cosa è certa, buttare non la butto, questo è ovvio. Al limite cerco di ricavarne qualcosina, qualcuno ci sarà che la vorrà, se non lo vuole poi non è che me devo comprare il pane con quei soldi. E appunto, come stavo dicendo, faccio come ha fatto Marco, mi compro un bel baracchino e ciccia. E la capo frequenze ma le ascolto nel ricevitore, per cui va bene così. E tutto sommato alla fin fine non perdo niente, perdo solo la figura di vederlo davanti, l'immagine perdo, che non me lo vedo più davanti, funzionante. Ecco come, ciao Marco intanto, scusa non ti avevo salutato. Riprendi. Ciao Giulio. 4.40, non so, hanno quel problema congenito, che il 4.30 non ha, ma chissà cosa hanno fatto lì alla K quando l'hanno fatto, e sono anche più rari i 4.30, sono più rari, molto più rari, infatti nell'usato trovi sempre 140, 4.40, dai 4.30 mai, chi ce l'ha ce li tiene mi sa. Il 430 è più meccanico, non lo fa con difetto, guarda, il 430 insomma ne conosce un anno e mezzo fa, insomma forse un anno fa, Fabrizio stesso mi aveva sostituito il display, il frequenzimetro, perché si era bruciato, ecco queste cose possono succedere, capito, ma quel difetto lì non lo fa quel difetto proprio come fa il 440. Perché la mia funzionava anche col frequenzimetro, e praticamente i decimali non si vedevano più. L'aveva trovato negli Stati Uniti, mi pare, e me l'aveva sostituito, proprio originale. Capite? È molto più meccanico, io ce l'ho il 430, e non mi ha mai lasciato a piedi, mai, ma c'ha anni, l'avevo comprato a Walter, non mi ricordo quanti anni fa, tantissimi. E ha avuto dei problemi così, il frequenzimetro, una volta dei fili, delle cose che si erano dissaldate, mi ricordo, insomma, fesserie, ma ad avere problemi così a lasciarti proprio a piedi, il 430 non me l'ha mai fatto, mentre il 440 per un sacco di volte, anche perché ne ho avuto tanti e tanti mi hanno presentato sempre lo stesso difetto, Marco, capite? E quindi non lo so, però è un lavoraccio, è un lavoraccio, ci sono ore e ore di lavoro, perché vanno attaccati tutti i condensatori, poi vanno rifatte tutte le tensioni, va ritirato tutte le luci, insomma c'è un grande lavoro dentro, io non ci ho mai messo mani, non so manco da che parte iniziare, perché è un lavoro molto molto complesso, però me l'hanno spiegato e so che c'è un grande lavoro, perciò ecco dove la cifra anche, che pure è consistente, perché insomma anche se i condensatori costano poco eccetera, c'è un lavoro, un grande lavoro, bisogna smontare tutta la radio, e, insomma c'è un grande lavoro. Avanti Giulio. Sì, ma indubbiamente, lo so, quando si lavora in queste apparecchiature tempo ce ne vuole per poter sistemare, ci mancherebbe, questo sì, ci vuole anche molta pazienza, oltre alla bravura anche del radiotecnico che te lo ripara, perché se capita in mano a qualche pellegrino poi te lo rovina di più, per dire, no? Questo se non ci sono dubbi, però cosa vuoi che ti dica, ripeto, a me fondamentalmente questo mi serve perché ce l'ho, però non mi serve, non so se riesco a spiegarmi bene, perché non mi serve, perché non sono patentato, per cui non avrei questa grande perdita, se non se avessi avuto la patente magari ne avrei avuto altre anche del radio sicuramente, ma siccome non è una grande perdita per me, non sopravviverò lo stesso, non ci sono dubbi, capito? Al limite se proprio voglio ascoltare altre frequenze accendo il ricevitore e ascolto, per cui va bene voi, diciamo che un'antenna ce l'ho anche piazzata per poter ascoltare il ricevitore, no, non ci sono problemi qua. Ne prendi Marco? Ma perché anche il tuo ha dato problemi? Sì, mi ha dato problemi anche oggi, ma questo già mi succede da oltre un anno, basta farlo scaldare 10 minuti e tutto si ripristina e funziona normalmente, o Marco, è quello che intendevo dire io. A questo punto a meno che si blocca definitivamente, ma andare a spendere circa 200 euro solo perché devi attendere 10 minuti per farlo scaldare, non lo so se fino a che punto ne valga la pena, o trattandosi di una macchina ormai antiquatissima, più di vintage, non vintage, no, ultra vintage. Ma ti dà il problema dei puntini anche? Sì, il problema è quello, alle volte, non sempre, alle volte perlomeno quando comincia il tempo come adesso, che non c'è più quel caldo di prima. Non capisce. Pensate, non me l'ha mai fatto, perché? Perché c'è un caldo talmente forte che... Non c'entra niente, mamma mia. A Claudio, che tra l'altro è uno del mestiere, lo stava spiegando ad un altro radioamatore il fatto dei puntini è perché si crea una condensa nel VCO, nel VCO, e allora a quel punto lì dice si fa questo lavoro i VC, poi ha detto basta farlo scaldare gli istituti, che in realtà si lì e ci sono arrivato benissimo, perché noto benissimo che quando me lo fa scalda 10 minuti e si ripristina tutto perfettamente. Interessante non portarlo quando ci sono questi puntini. Io vado. A quanto so io però è un problema che tende a peggiorare col tempo, tende a peggiorare, quindi non lo so, se tu te lo vuoi tenere te lo fanno quasi nuovo, cambiano tutti i condensatori, insomma, se ci tieni si può anche valutare quell'opzione. Claudio l'ha fatto, ti dura altri 30 anni, Giulio, vedi tu, che te l'ho detto, tende a peggiorare, almeno così ho letto. Sì, ma questo lo so, indubbiamente, ma tutte le cose col tempo si consumano, ci sarà sempre un peggioramento in tutte le cose, però voglio dire, a me personalmente, io sto parlando di me personalmente, tutto sommato, non faccio una grossissima perdita, perché? Perché se voglio ascoltare attacco il ricevitore, che lo uso quasi mai. Oppure se voglio modulare, se posso modulare il 27 perché ne ho 12 di baracchini, per cui no, per me non è una grossa perdita. Una grossa perdita sarebbe stata se io avessi avuto la patente o Marco. No, questo non vuol dire che io lo butto via, no, nella maniera più assoluta. Magari poi me lo riparo, cambierei e me lo riparo o Marco, ecco cosa intendo, mi spiego? Sì, sì. Sai, sono sempre quegli apparati, un peccato abbandonarli, dico proprio a se stesso. Se proprio ci tieni, te l'ho detto, lo puoi riparare, lo fa riparare non subito, ma in un futuro, però te lo fanno una bella revisione, proprio una bella revisione. Bene, Claudio, io adesso dovrei fare un po' di cose, pulizia personale, no? Quindi magari mi assento, rimango in ascolto, entrerò più tardi, dai. Sì, va bene, io vieni qua verso le 8, io 7:15, 7:20 porto già, poi appena arrivo a Valerio sistemiamo la macchina, la mettiamo dentro al mio posto, veniamo con l'altra macchina. I luci o Giulio, no, Lucio, quello è un campanello d'allarme, ti sto dicendo, perché quando tu la radio la accendi lei già le manca quella tensione necessaria per poterti dare subito la ricezione e quindi aprire i puntini. Come i condensatori si caricano tanto, la radio va nuovamente in ricezione e trasmissione. Capito? Quindi quella tua potrebbe essere un campanello d'allarme già molto più fattibile, perché magari sono da regolare solo le tensioni, non da sostituire i condensatori, ma col tempo la tensione non gli arriva più e la radio non risponde più come quella di fianco, come ha fatto la mia ha iniziato con qualche minuto, ok, come mi diceva la faccia, tom, era di nuovo perfetta, è iniziato così anni fa. Poi è iniziato con i 10 minuti, ha detto, non si ribilla più, 10 minuti, vabbè, ecco, si è ripreso. Poi è iniziato con la mezz'ora, poi con l'ora. Alla fine per poter trasmettere con questa radio, quando uscivo la mattina per andare al lavoro, la accendevo, la lasciavo accesa, quando rientravo era a posto. Ma tramite mia moglie dicevo, controlla se ancora ci sono i puntini, sì, controlla che sì, ci passavano ore. Alla fine mi sono deciso e l'ho mandata a riparare, capito? Perché inizia così, inizia con i pochi minuti, con i 10 minuti, con le mezz'ore, con l'ora, alla fine non risponde più perché la tensione non arriva più ai condensatori. sei ben retta a me, che ti informi, ti fai, non lo so, ti prendi in mano la service della radio, eccetera, già sei, insomma, abbastanza preparato in queste cose. Vai a vedere dove si regolano le tensioni, io non ti posso aiutare perché ti giuro, come un fratello minore, non l'ho mai toccata perché non so metterci le mani. Nel 140 sì, ma in questa non so proprio dove metterci le mani. Capito? E vedi un po' se riesci a regolarti le tensioni e vedi un po' cosa succede o quanto sta dando di tensione sui luci e condensatori. Se riesci a fartela tu, e sicuramente la recuperi in tempo, ma se passa del tempo e la radio non risponde più, allora i condensatori sono tutti da cambiare, sono tanti, non sono pochi, sono tanti. Sì, ma indubbiamente questo sì, no, ma io non ci penso proprio, ne applico nemmeno, figurati, non mi interessa, se proprio decido, lo stagisco, lo faccio fare da chi lo fa come si deve, da chi ha la strumentazione, eccetera. Non ero di apparecchiatura in mano a pasticcioni, no, oppure non voglio pasticciare nemmeno io, ci mancherebbe altro. Se lo faccio perché lo devo mettere a posto come si deve. Diversamente no, non lo do a nessuno, nemmeno per sogno. Al limite finisce dentro l'armadio o dentro un cassetto, figurati. Per dire, no, poi se decido lo faccio fare, questo è ovvio. Ripeto, buttare non lo butto, questo non ci sono dubbi, questo è scontatissimo. Un'altra cosa mi puoi dire buttare, ma proprio questo non lo butto di certo. Però adesso sta andando, quando mi lascia a piedi, pazienza, vuol dire cercherò di pedalare con altre cose o qua. Vai Marco. No, Marco è andato a farsi la doccia, a prepararsi, eccetera. Sì, ma sto dicendo, se lo vuoi fare, che te la senti, per carità, io non discuto delle cose. C'è uno che qua a Sassari lo fa e le fa anche molto, molto, molto bene. Sottolineo molto bene perché lo fa con passione e soprattutto sa come farlo. Ma lo fa per hobby e quindi non ne ripara. Tutto qui. E niente, l'altro difetto che fa è la batteria va bene al litio, ma quella dura tanti anni, quella però appartiene ad un'altra cosa, le memorie, quella le avevo sostituita io e no, è una fesseria. Poi c'è quella del backup, che quella è un po' più consistente, un po' più consistente, però il difetto è diverso, non fa i puntini ma appaiono gli zeri, capito? Praticamente tu quando accendi la radio va a 14.000, quindi va nella banda principale dei 20 metri. Questo è successo a un'altra persona che non dico chi è, quella radio eccetera. Io avevo già sentito, per esempio, Massimiliano Archimede, che lui è un tecnico professionista, e mi aveva detto sì, quel difetto lo fa la batteria del backup. E io figurati non sapevo neanche che il 440 avesse un'altra batteria che gestiva la parte del software, figurati tu, capito? Quindi è un po' complicativo il 440, l'ho fatto un po' così. Mentre il 430 è molto più semplice, ecco perché io avevo tenuto il 430 e avevo venduto sia il 140 che sia il 80, il 430 ce l'ho ancora, infatti c'ho il 430 e il 440. Però era capitato questo 440, tra l'altro era il mio, che diedi a Roberto, non mi ricordo quanti, tantissimi anni fa, capito? È ricapitato in mano a me un paio di anni fa e Roberto ha detto guarda che quando lo accendi appaiono i puntini e quindi devi aspettare un pochino che si riprenda. Così ho iniziato a fare, poi ha iniziato a peggiorare, alla fine l'ho mandato, me lo sono fatto riparare e ce l'ho sempre, non l'ho mai venduto perché cosa vendi? C'hai già speso 200 euro per metterlo a posto, cosa lo vendi? Assolutamente, quindi me l'ho sempre tenuto, Giulio. Il discorso tuo non fa una piega, per carità. E appunto, io ho fatto da quel principio, poi non è che io devo realizzare dei soldi dalla radio perché ne ho bisogno, ci mancherebbe altro, okay? Grazie a Dio già non sono a quelle condizioni, anzi me ne posso comprare in rete se voglio in queste radio così, ma da nuove però, non da usare, per dire no, no, secondo me no, a un certo punto, per me, ripeto, per me che non ho patente, per me, e lo voglio sottolineare, perché la patente è tutto diverso, ma per me che non ho patente, ma che vuoi che me ne freghi se poi quello me lascia a piedi, prendo, ne tiro fuori il ricevitore, accendo quello quando devo ascoltare le altre bande, e ascolto quello, quando devo modulare, accendo il baracchino e mullo, tranquillo e pacifico, tanto lì, non ho mai avuto ambizioni di potenza, non ho avuto mai ambizioni di essere una superstazione, non me ne frega niente. Ma baracchino vado avanti, mi sento lo stesso dappertutto, per cui a me basta che mi risponda, poi il resto che se ne frega, se la radio è troppo forte, se è più bella, se è più brutta, tutte queste particolari a me non mi interessano, non ci faccio caso, capito qua? Sì, ma io uso anche il baracchino, il Galaxy, uso anche il Galaxy a volte, però questo non lo lascio più di un paio di 2-3 giorni senza usarlo, capito? Assolutamente, lo accendo sempre tutti i giorni, anche se parlo col baracchino, però poi dopo un paio di giorni commuto l'antenna e vado con questo, o col 430, anche se il 430 è a posto, non c'è problema, però si può usare anche il baracchino, non è che è obbligatorio per forza usare questa radio, ma io, come sai, benissimo, è dall'85 che uso questo tipo di radio. Me ne sono passate in mano tante e tante, le ho date e poi ricomprate, date e ricomprate perché mi piace e basta. No, ti ripeto, ribadisco che se ti sta già iniziando a fare quel difetto è una decisione che prenderai tu, o mettertela a posto o tenerla così fino a quando muore del tutto e quindi ci realizzi quanto è valutato un 440, 350 euro. Ci valuterai, ti prenderai la differenza della riparazione, quindi se ci vuole per ripararla 150, 180 euro, lo venderai ad un prezzo dove cercherai di realizzare qualcosa per poi aggiungere e comprarti un'altra. Tutto qua, il ragionamento è più che logico, non ci sono dubbi su questo. Appunto, è quello che intendo. Sai qual è? Il problema di Sassari è che non c'è un radiotecnico affidabile per queste cose. Tu mi dici, sì, c'è uno che lo sa fare, d'accordo. Sì, d'accordo, lo saprà fare pure, no? Però io sinceramente, io personalmente, questa è una mia idea personale, non mi fiderei a mettergli in mano a nessuno qui a Sassari, a nessuno. Anche se la gente li vanta, c'erano i tecnici e che dicono è bravo, sarà pure bravo, io non lo metto in dubbio per carità, ma io non me la sento di dare la radio a mettergli mano, perché intanto poi alla fine lo sappiamo come succede, a preferenza se proprio devo ripararlo, so benissimo chi è Bianconi, ci ho avuto altri contatti negli anni passati con Bianconi eccetera, per cui lo posso sempre telefonare e mettermi d'accordo con lui, spediglielo e me lo faccio fare, perché so che è un tecnico bravo, anche se so che si fa pagare abbastanza, ma questo è un altro discorso, finché uno lavora bene il prezzo poi non conta assolutamente, perché nessuno ti obbliga a farglielo fare, quando lui ti dice ci vuole tanto, sappiamo benissimo che devi dargli quei soldi e sappiamo anche benissimo che lui ti fa un buon lavoro, ecco, io parto da questa idea, da questo principio sempre nelle cose o qua. Io sono d'accordo con te, ma qua non mi posso esprimere, Giulio. Però ti posso garantire una cosa, che chi l'ha fatta a me negli anni passati non è un tecnico di professione. Guarda, non voglio dirti che abbia come le facciate a zero. Capito? Ti ho già detto tutto. È una persona validissima, credimi, validissima, con risultati da 100 e lode. Stai tranquillo, se te lo dico io. È una persona validissima con risultati da 100 e lode, sottolineo 100 e lode. Non voglio aggiungere altro, perché io avevo una radio e ho ancora 275H, che il signor Bianconi mi ha detto una cosa che pur non è risultata assolutamente vera al telefono, spiegando il difetto, parlando così a livello, come sto parlando con te, con chi so io, ma la porti quella radio, anzi sto passando a prendere, la verità è passata, l'ha presa, me l'ha riparata lui, e questa radio in 3 anni non ha fatto un difetto, mai, mai assolutamente, mai e poi mai, ok, mai e poi mai. Quindi sto dicendo una cosa molto, molto, che però qua non posso allungare, esprimermi come voglio io, ma stai pur certo che se te la ripara chi l'ha riparata a me, quella radio è come che te l'abbia riparata Bianconi, o forse meglio di Bianconi. Sì, ma ci credo quello che mi stai dicendo, ma c'è un problema, è il problema più importante, che io questa persona non so chi sia, per cui per me non esiste, ecco qual è il discorso, ecco qua. Se io non la conosco la persona, non posso certo affidare a nessuno così, dare la radio in maniera così, all'acqua di rose, tanto per dire, la do a lui e me la ripara. Tu la conosci e hai fiducia e va bene così, ma io non la conosco, proprio per questo qua, ecco, mi spiego. Ho capito, però io ti ripeto, non posso esprimermi più di tanto, però certo io la conosco anche molto bene. Ti sottolineo, ribadisco che è una persona validissima, lo fa per hobby, lo fa per hobby, ma credimi, credimi veramente che è una persona validissima, sa dove mette le mani e qualsiasi cosa fa dentro le radio la fa per passione, la fa bene, ma bene, te lo posso garantire, te lo posso garantire con la G maiuscola, tranquillo, perché a me mi ha fatto alcune riparazioni così a livello hobbistico, che ti posso garantire risultati 100 e lode, non le mani d'oro, non c'è da fare, poi conosce molto bene l'elettronica, però non è un radiotecnico, lo fa per hobby, capito? Quindi non è che non c'è la gente, è che purtroppo non abbiamo un tecnico collaboratorio eccetera, ecco. L'unico che potrebbe farti quella radio, a te personalmente che sicuramente lo conosci, potrebbe essere Vittorio, però questo lo devi decidere tu cosa fare. Io come hai detto tu c'hai le tue idee, io c'ho le mie, io per esperienza vissuta preferisco più l'altra persona che mette le mani dentro le mie radio che Vittorio, senza per carità insinuare niente, però io ho più fiducia in lui e quindi ho sempre avuto questo rapporto così, tutto qua, e chiudo il discorso. Però chiaro, se lo mandi da Bianconi, Bianconi è Bianconi, e quindi ti farà un lavoro ad un livello, non lo so, se come lui o meglio di lui, ma non penso proprio, perché quando uno mette le mani in queste radio o lo sa fare o non lo sa fare, punto e basta. E io ti posso garantire che questa persona che conosco io lo sa fare molto molto bene, forse meglio di Bianconi, su questo non ci sono dubbi. Sì, ma non lo escludo qua, io lo so, al limite io posso pure intuire che può essere, ma non, nemmeno io faccio nome, perché direi una fesseria magari sbagliando se non fosse così, per cui però il discorso ricade sempre su quel problema, io non lo so chi è, sono un noccio, e dunque mi devo, è come il medico, no? Se tu dici, ma quel medico l'hai sentito dire, so che è bravissimo, e allora cosa fai tu? L'ho sentito da te, l'ho sentito da un altro ancora, e così via, cosa vai? Vai e ti metti nelle mani di quello, no? E ti fai visitare, ti fai vedere, eccetera, eccetera. E dunque parti già con l'idea che devi andare da quello, perché per sentito dire hai sentito che quello è bravo. Poi naturalmente bisogna anche vedere se quello in realtà si dimostra bravo, è ovvio, questo ormai in tutte le cose, per carità. ripeto, questa persona che sei tenuto io non lo conosco, o probabilmente non lo conosco, non so chi possa essere, per cui non, il discorso, non ho altre alternative, o mi ancori o niente, o qua. Sì, perché no, non sta a me, capito, non posso dirtelo chi è, non posso assolutamente dirtelo. Parlando ti posso garantire che io ho la massima fiducia quando lui opera su una radio, perché è preparatissimo, su questo non c'è più, quindi te lo dico con molta sincerità, io ho sempre avuto la massima fiducia, proprio con la M maiuscola, perché è una persona preparatissima che lo fa per hobby, ma uno non è un hobby così, l'elettronica non è un hobby, la devi sapere, devi sapere quello che stai facendo e quello che stai dicendo, quindi è chiaro che io ho sempre avuto la massima fiducia perché è preparatissimo, tutto qua, però non ti posso dire chi è perché siamo in radio e non si può. Comunque, io ci sono passato, Giulio, e te lo sto dicendo, l'ultima volta l'ho mandata alla Bianconi perché lui non aveva più disponibilità con me personalmente, quindi l'ho dovuto mandare, ma ti parlo di un paio di anni fa, però l'altro che mi aveva riparato lui è durato anni, perché io l'ho venduto e non ha mai fatto un difetto, mai, assolutamente mai, io l'avevo venduto proprio perché mi ha rotto le scatole di spendere quattrini e mi avevo tenuto il 430. Poi, ripeto, è capitato che ho fatto degli scambi con Roberto di Radio Vintage, eccetera, e lui mi ha ritornato questa, che era la mia, capito? Che era la mia. Però aveva questo problema e quindi la mandai su, forse non ne sono passati neanche 2 anni, sono, non lo so, comunque 1 anno e mezzo sicuramente, capito? Tutto qua, e me la tengo perché cosa, ormai la radio è tutta revisionata, tutta a posto, condensatori tutti cambiati, tutta messa a posto, e me la tengo, se dovesse tornare in difetto la metto anch'io da parte e mi tengo solo 430. Sì, beh certo, questo non ci sono dubbi, ormai l'hai aggiustata e va bene, la usi e ti va bene, ti diverti con quella, non ci sono dubbi, però il discorso è sempre quello, se tu non sai chi è, utile stare lì a cercare dati per quale motivo, non c'è motivo, ma sai, conosci Bianconi, la spedizione Bianconi è ciccia, è proprio la vuole riparare, io farei così. Se conoscessi con la persona che sei tenuto tu, probabilmente ne parlerei con lui e vediamo come si possa anche comportare, perché no? Perché alle volte basta anche parlare con la persona per intuire se quello è bravo o se è meno bravo, eccetera, non perché io metto in dubbio quello che mi stai chiedendo tu, no, assolutamente no, questo è tutto un altro discorso, ma per dire, no, quando tu verifichi di persona, allora puoi decidere e avere più o meno fiducia nei confronti di un'altra persona, tutto lì, non ci sono dubbi. Vabbè, comunque, lasciamola quando sarà il momento, io adesso questa, quanti anni ce l'ho? Questa ce l'ho già più di 3 anni, questa radio qua, per cui, da quando l'avevo presa da Franco, per cui, questa è andata bene, e tutti i santissimi giorni, tutti i giorni, se non accendo di sera, l'accendo la mattina, nel frattempo che io mi alzo, tra una cosa e l'altra, alle 8 del mattino già accesa, esco di sotto verso le 10, per dire, no? E 2 ore di accensione, anche se magari la sera, come è successo 2 giorni fa, che non ho potuto accendere per la sua maniera perché avevo degli impegni e dunque non ho fatto nemmeno il tempo ad arrivare in orario per poterlo accendere, orario intendo entro le 8, dai, come si fa solitamente, per poter fare 2 chiacchiere, capito qua? Figurati, quindi ho ragione io, non lo sapevo, tu ce l'hai 3 anni ce l'avevo io e sono 6. 3 anni mi sembra ce l'aveva Franco, 2 anni e mezzo, quindi quando è stata riparata è già 3, 6, 3, 9, sono già 9 anni che praticamente i condensatori stanno lavorando, quindi vedi bene che la riparazione dura una volta che la fai, non è che non dura, dura, dura, dura. E poi l'unica cosa che mi aveva detto Bianconi, molto importante, è la tua pensione, non darle più di 13, 13,2, capito? C'è molta gente che usa queste radio o le radio a 13,8, 14, male. La pensione che deve entrare, il massimo che deve entrare in queste radio sia 140, 440, 430, eccetera, sia 80, non più di 13 volts, non più di 13 volts, proprio 12,8, 13, 13,2, non di più, capito? È molto importante anche quello, mi ha detto. Ma io ti devo dire che io la uso esattamente a 12,8 e intanto misuro la tensione nell'alimentatore per vedere se 12,8 è sempre stabile oppure se non si sa mai, sai, col tempo anche l'alimentatore può variare. Dunque, per dirti, questa qui quando io non la uso, che uso il baracchino, rimane tutta la sera, dalle 3,5, 4 massimo, fino alle 8, sempre, tutti tantissimi giorni, o che la uso o che non la uso, è accesa, magari col volume completamente a zero, magari anche senza l'antenna, perché allora l'antenna la uso nel baracchino, ma per dirti, questa non c'è, non salto un giorno che non venga accesa questa radio, sicché per dirti, ma non solo questa, tutto il tavolino addirittura, anche il rosmetro, un rosmetro che il trasmette di 1000, TM1000, che ha i due display grandi, grandissimi, che sono 10-12 cm larghi tutti e due, sia l'amperometro che il wattimetro, cioè sia il rosmetro che il wattimetro, e anche quelli sono sempre accesi, perché sono collegati tutti a una presa che alimenta, e quando accendo l'interruttore generale si accende tutto, perciò non è un problema, è sempre acceso qua. Sì, però è meglio usarla, Giulio, è meglio usarla. È meglio usarla, farla andare in trasmissione, far scaldare tutto il circuito, sia di ricezione che di trasmissione. Queste sono le parole che a me hanno detto, poi ripeto, io su questa radio ho la mia esperienza, e quindi ti posso garantire che questo difetto c'è e rimarrà a vita natural durante per quanto riguarda il 440, la cosa è verificata, non lo so, però una radio che fa questo difetto dopo un po' di anni, ma soprattutto lo fa se tu la tieni spenta mesi e mesi, come era capitato a Roberto, che l'aveva proprio messa da parte, capito, perché non so cosa faceva, pure a casa eccetera, comunque era sempre da parte. Il momento in cui è andata a prenderla ha iniziato questa cosa, fortunatamente lui ne aveva un'altra che aveva comprato, mi pare, da non so dove, e quindi niente, tutto qua. Comunque, ripeto, la riparazione si può fare, che poi sta a chi ce l'ha, se tenersela o meno oppure versarla così, ma io ho fatto uno più uno, intanto cosa fai? Vai a spendere nuovamente, intanto me l'avrei ricomprata di nuovo, nonostante avessi 4,30, 4,40 mi è sempre piaciuto, c'ha tutto, è completissimo, c'ha 100 memorie, c'ha tutti i filtri, questo ti ripeto, e quindi insomma non mi conveniva, ho detto ci spendo 160 euro e me la rimetto a posto, la rifaccio tutta revisionare, me la tengo, e così ho fatto. Va bene, vediamo se vuole entrare qualcuno, insomma la cosa diventa molto, non sempre parlando delle stesse cose. C'è qualcuno sul canale 10 che vuole entrare? Avanti? Avanti Valerio! No, non è Valerio, questo è Santiago 5 qua 6. Giù. No. Capito, giù. Gai S. Comunque, l'Italia c'è stasera, te la guardi? Capita. Cosa faccio? Per forza. Speriamo bene che riesco a vincere, ma ho tanti dubbi. Hai visto anche l'Argentina? Rischia, Anche l'Argentina, se non si spogliano un pochino, non si può presentare ai mondiali, perché non si qualifica. E io ho poco seguito questa cosa, quindi cioè, l'Italia non va al passaggio diretto come la Spagna, così la Spagna che c'è diretta. la Germania, mi pare, perché deve fare i playoff, praticamente così. Beh, dunque l'Italia penso che ne basti solamente un punto, stando ai conti come per i risultati che hanno fatto gli altri, all'Italia ne dovrebbe bastare un punto, ma penso che un punto riesca a guadagnarselo. E l'Argentina lo stesso rischia, ieri ha pareggiato 1-1 con il Perù, mi sembra che ha giocato, o l'Uruguay, boh, lo sai che non me lo ricordo, o è Uruguay o Perù che ha giocato l'Argentina. E visto cosa vuol dire? L'ha chiamato a Dybala e a Higuaín, a noi ci ha fatto un favore grandissimo, non grande, cioè Dybala c'è, però non l'ha messo in panchina, di che ci ha fatto un grandissimo favore, io almeno ce lo restituisco intero. Dybala è stato convocato in nazionale argentina, mentre Higuaín no. Higuaín no, Dybala è stato convocato ma non l'ha giocato, per cui è la panchina. Magari era nato l'Argentina. San Paolo mi sembra che si chiama, una cosa del genere. Ma deve essere uno dalle idee quadrate, sai. E lui ha chiamato Riccardi, ha chiamato e altri. L'altro quello aveva avuto un incidente in macchina con un taxi e si aveva rotto delle costole, per cui non ha potuto giocare, Alguero, come se si chiama, Alguero, boh, una cosa del genere. Cioè vedi un giocatore che in Serie A, in campionato italiano, sta facendo scintille e tu non lo convochi, ce lo convochi e lo lasci in panchina. No, vabbè, cosa vuoi ti dica? Comunque, meglio per noi, almeno come hai detto tu, ritorna sano, ritorna tranquillo, vai. Vabbè, no, io sicuramente andiamo lì al Lucenaio, anche perché c'è le partite, capito, quindi sicuramente metteranno anche l'Italia. A proposito, devo telefonare, porca miseria. Vai, se devi telefonare non ci sono problemi qua. Quando termini già sono qua, mi chiami e fai la telefonata che devi fare, no? Il problema non c'è nessuno, non ci mancherebbe. Non lo so se è aperto, sono le 6:00-5:00. Devo telefonare per prenotare, se no adesso mi sono dimenticato che c'è anche la partita, magari molta gente vuole avere la partita lì e quindi non ci sono posti, perché è un locale che non è molto grande, capito? È abbastanza accogliente, poi ho voglia di fare stasera, andiamo a mangiare due cose di fare tutti assieme. E chiamo dopo, sono le 6:00, non penso che sia aperto ancora. Magari c'è qualcuno dentro, non lo so. Devo anche cercare il numero. Ok, fai, non ci sono problemi io qua, ci mancherebbe. Sono qua, dai. Ma sei giù che provo a vedere, dai. Prova. Ma io, chiudete tutti quanti la frequenza, dai, che sono stato io. Ciao Gianni, il trenino è arrivato, solo che ha le rotaie interrotte. Ma tutto sai succhiare tu, se sai succhiare tutto dicelo, che ci impegniamo subito. Oh già, questo è uno che ancora non è passato una certa malattia. Gianni. Ehi, scusate che mi hanno chiamato al telefono, là. Sono qua, là. Ah, ok, d'accordo. Buonasera a tutti. E calmo fino a qua. Calmo fino a qua, povero. Fatto, c'erano, dai, c'è anche la partita, c'è anche la TV, ok. Avevamo per meno un quarto prenotato già, dai, così siamo più, va bene, a posto Giulio. È prenotato Claudio? Sì, prenotato, per le 9:45, ok. E va bene, prima ci porta a me, sono giù, che ore sono adesso? Purtroppo sono dovuto scendere d'urgenza a fare un dottore. Non ti preoccupare, anche io potevo essere 7 metri, ma quanto vale io venire verso le 8, quindi non c'è problema. Basta che siamo lì tutti alle 8 e mezza, parcheggiamo, finiamo la cosa e poi andiamo a cena, va? Segnale che va e viene, boh, sta accordando, non lo so, era 9:20 poco fa, adesso mi fa 7, 8, 9. Ma non è lui allora, a me mi arrivava 9:15 mi sembra qua, cosa ti volevo dire, a me quei difetti che ha fatto a voi non me l'ha mai fatto, in tanti anni che ce l'avevo l'apparato, e ne ho avuto due mi di quelli. Ma che sei qua, umane? Che difetti, Natali? Sì, Natali, ma non è detto che lo faccia in tutti, capito? Magari il tattoo era una serie che era già stata revisionata quando l'hai comprata e quindi dura 10 anni, non è così. A me quello che io avevo dato a Franco, che adesso a Giulio, sta iniziando ogni tanto a fare i puntini. Ma era 10 anni fa che io l'avevo fatta sistemare, capito? Questa che ho adesso l'ho fatta sistemare 2 anni fa, capito? 2 anni fa, perché nell'arco del tempo non aveva più la tensione ai condensatori dell'IVC e quindi la radio non risponde più, non riceve e non trasmette. Tu l'accendi e invece di apparirti la frequenza ti appaiono tutti i puntini e la radio non risponde niente, nessun tasto, nulla. Solo se muovi il VFO la frequenza cambia, però non senti niente. Io ho capito, mai fatto due difetti, ne ho avuto due di quegli apparecchi, tutti e due uguali. In Natalì non è detto che, capito? Non è detto, io quello che avevo visionato, saranno 10 anni fa, ti ho venduto, non... ci vediamo spesso, ci vediamo ogni tanto, ci siamo visti anche quest'estate con questo che gli avevo venduto e non gliel'ha mai fatto il difetto, dipende. A me quella, la prima che mi aveva revisionato Fabrizio, ad esempio, è quella che ho venduto, quindi sono più di tanti anni fa, e non l'ha più fatto il difetto. Infatti non ne sapevo neanche di questi difetti, io quindi ero pronto subito, ne stava là, né calcina né nuda. No, questa è 43 conversioni, non devo far scaldare niente, non è il 140. Io ce l'ho a 20 watt e quando l'accendo sempre a 20 watt, il bello è quello, così il 430 è la stessa cosa, mentre il 140 e 80 sul diesel, prima di scaldare e mettersi a posto i watt e vi basta un'ora, capito? No, infatti avevo venduto quelli e mi avevo tenuto il 430 e il 440. Ciao Marco, ti sei lavato, sì? Ehi, ehi. Poi più tardi mi faccio appena di barba, eccetera. Beh, ancora pagando alle 9, alle 8 e mezza, cioè. Ma non va mai un quarto prenotato, ok? Alle 8 e mezza siamo lì, e sono le 6. Adesso devo mangiare il cane, io. Poi alle 7, verso le 7 e un quarto, lo porto, 7 e un quarto, alle 8 arriva Valerio, parcheggiamo la macchina dentro e usciamo con la mia, in un posteggio libero, capito, non c'è problema. Natalino, pronto il tuo stomaco? Ehi, ho preparato anche la Glock, stasera me la porto e ti devo sparare al pollice sinistro del piede. Alla luce... Così impari a dirmi cuocuomane. Anche Gianni c'è. Ehi, no, mica stasera, poi proseguiamo noi. Dopo finita la pizzata ci andiamo tutti in piazza sola a bere. Al Bar Daniele, no? No, non c'è più il Bar Daniele, adesso si è cambiato tutto. C'è un altro bar dove vanno tutti i giovani, c'è musica. vita, certo. Ma noi cosa vivremo? Siamo tutti vecchi. Nada da vecchi. Bisogna essere giovani dentro, andare via. Ma che sono curulo, ci sono come a cammina a fare un vecchio di 100 anni. Non ti buttare giù, non ti buttare giù. Oia. Ma già vengo. Perché siccome ho bisogno di affetto, no? Se trovo una diciottenne me la poso in grembo, me la siedo e mi faccio fare caro caro. Ma concetta a secco della sedia. C'è Gabbro, dai che nonna, cosa te ne vai? Una diciottenne ci vuole, a me non ti viene anche il sorriso. Mica Concetta ti aspetta col fucile, mi. Cazzo vedi, sei amata. Avete parlato in due, vai in attari. È vero, quella è armata, cavolo. Quantomeno con la Ron, con la Mi, ti aspetta dietro la porta, appena varchi la porta, sta! Una bella stoccata. Ma Giulio che fine ha fatto? Non ha più risposto, Clara, abbiamo chiamato, non ha risposto. Sono con la giubbina c'è dove la radio. Canta quella che hai coltellacci la cucina, ti tiro in stoccata. Ehi. Le sei ancora. Ma voi avete pranzato, per dire? Siete riusciti a pranzare? Sì, certo. Io ho mangiato ali di pollo piccanti, insalata con pomodori, rucola e cipolla. Io mi ho fatto la pasta asciutta, spaghetti col sugo uribumati brechi, ma giovato, la bui ha pigliato un poco di rignone, di cose, di tutta questa roba così e la giugutta. Cazzo, già ho mangiato io, non c'è problema. Ho riempito le cipolle, così l'hai fatto. Eia, già lo sai. A me piace tanto, lo sai. La colatera, questa cosa lì, piace un po'. Eh beh, io grido, sono buoni. Anche a me piacciono. La piglia dieta di coso suio e la giugutti, via. E poi non è che ci voglia tanto, non costano tanto e non ci vuole tanto manco la cucinata, e fanno un profumo, e poi soffritto con le cipolle e poi un po' di vino bianco e via, e tira campare. Eia, poi c'ho il coso, come si chiama? Bah, chi sei, ma come si cazzo si chiama? Ma non mi lamento. Io ho messo anche due tipi di erba, esci da una buonissima erba aromatica. Ehi, azita, come si chiama? E gliel'ha data la campagna signora Maria, gliel'ha data cosa cortetta. Io gli ho messo una erba di un vasetto in casa. E non sono la bucola, la rubita. No, c'ho anche quella. Anche io me l'avevo piantata, qui si è seccata, l'avevo presa selvatica, l'ho piantata e l'ho fatto un bel matto. E basta acciapparla e tira bianchi d'orra, la rughita. E a me pure mi piace, mica, sì, se mi piace a farmi la insalata. Ma migliore è quella selvatica, quella comprata non è saporita come quella, quella è forte, quella selvatica è forte e brutta. Ehi, questa è selvatica, è stessa. E io l'ho presa selvatica, poi la mappiamo, è cresciuta, è diventato un cespuglio. Poi, vabbè, te lo sai che fa il fiore, giallo, eccetera, eccetera, poi si è seccato. Ehi, ma io non c'ho posto qua a mettermi le piante, se no già me le avrei piantate. Un po' di roba per cucinare, capito? Rosmarino, rosmarino già ce l'ho. E quello lo uso, lo sai, quando faccio il pollo, il sapore buono che vi dato, che mi susecque. Quello proprio fresco, fresco. E ce l'ho anche io, l'alloro c'ho. No, l'alloro no, ma chi so fa dei cespugli, l'alloro fa cespugli proprio quei grossi. E vabbè, comunque già fanno comodo, perché a me che dimentichi di comprarla, la rubita io di solito la compravo, però quando mi dimenticavo, proprio mi tagliavo la campagna, l'ho fatta. E vicino a casa, Natalina, è tutto pieno, solo che ci fanno in cara a pisciata, cosa dimmi di pisciata. E basta non andare vicino a casa tua, vai dove sai che c'è. Sì. Kappa, andava bene. Non c'è problema. Chiara Gava, cosa si è sceso a fare a Porto Torre, se è già? Sì, a Torre Rotta Sera, Natalia. Non fai male. E io chi? Mi hai mandati al diavolo? No, assolutamente. Quello è il giorno della pensione. Ah, dice, beh, pigliate la tutta quanta in... Oh, se mi avete chiamato stavo a mangiare il cane, sono qua, Bip, bip. Va bene. Yeah. E basta. Per star leggero, se no poi non riesco a mangiare la pizza. E quindi non hai mangiato? Ho detto, ho mangiato solo una caprese, cioè pomodoro e mozzarella e origano. E poi la mangi la pera e poi la pizza. È sicuro, mi? No, prenderò la pizza, secondo me. Ti ho detto, a meno che non faccia la pizza per bambini, quelle piccole, ma mi vergogno, dai. Lo paghi lo stesso, perché mi facciamo l'americana? Ci paga lo stesso, guarda, qui ti conviene mangiare. Ma non mi posso crepare, no. Poi ci facciamo la romana. Ah, chi si mangia un chilo di roba ci paga un chilo di roba. Chi ne paga un etto, chi ne mangia un etto ne paga un etto. La cosa deve essere qua. Urcano. Metti che poi Natalino si prende le ragoste, noi pagando le ragoste sue. E perché male ti fa a pagare? Ah, Urcano. Una volta c'è successo, mi siamo andati con Ivan, tanto per cambiare, a Sennori, con un paio di amici, conoscenti, dai, perché amici, e questo ragazzino si è pigliato i gamberoni, ogni agonto che ci è uscito a me, lui ci siamo mangiati una normale pasta e lui i gamberoni, e siccome vi ho pagato un conto unico abbiamo diviso, non in parti uguali. Ogni agonto. Cacuno è giunto, mi. Cosa vuoi tu? Dov'è mamma? I vicinati siamo noi nel caso che ci mangiamo il calamari. Cosa già? Ho detto i vicinati, siriani, siamo noi che ci mangiamo i calamari. Ah no, già mettiamo ci mandare a Baffiani, che buri. Non l'ho più provato così, no? Oh, mi vedi, quelli dell'Ospiti Day sono buoni, non sono male, eh? Non sono male. Al bowling io l'ho mangiato il piatto composto di lusso. Ma dove, lì all'Ospiti Day? No, al bowling. Hai segnato un giorno, poi ne abbiamo nessuno, poi abbiamo fatto un bici pur. Ma calamari fritti e patate fritte così buone non ne avevo mai mangiato. No, poi me lo ricordo, stavamo parlando di anguri e ci hanno servito l'anguria, ecco, questa l'ho per la vita. Ma chi per Bastianino in chivi? Lo so, ci hanno trattato bene. Ciao Valerione, dove sei? Beh, cosa temi? Il vento che ti porta via? Chiari dei. Ehi, va bene alle 7. Alle 7:15 porto a Filippo. Signore 8:04, poi aspetto a te, capito? Mettiamo la macchina dentro e andiamo a prenderci un aperitivo, intanto tutti alle 8:30 lì, non c'è problema. Devo mandare un messaggio anche a Franco, comunque io ho prenotato anche per lui, poi vediamo. Ah, Massimiliano viene? No, l'ho chiamato io, ho detto di no, che ha un altro impegno. Ma me l'aveva detto già a me da ieri, mi pare che l'ho detto in radio, Massimiliano non veniva, Stefano era a lavoro e Eugenio era a lavoro lo stesso. Vabbè. Però me l'ha ringraziato, ma ha detto che ci aveva un altro impegno. E Antonello Di Ossi, non si sa se è libero. No, io non gli ho detto niente, Antonello. Se volete chiamarlo voi, chiamatelo. Però non lo so perché... Non lo so, forse c'era la moglie che non stava bene per la gamma. Non... Potrei chiamarlo, sì, non c'è problema. Qui siamo, qui ci divertiamo, ricordati. Ci portiamo un po' a letto, eh? Ti portati la bambola gonfiabile anche. E lui ci paga il conto. Come faceva qualcuno all'epoca, eh? Prima andavano a mangiare e poi facevano pagare lui. Una volta erano tutti e due. L'hanno inventato. Molidiani, Giovanni Molidiani, via Vidardo, lì via Passi, non mi ricordo dove, e l'aveva fatto pagare a tuo paese, alla colazione via Vidardo. Ah, io pure che ti offro la colazione, vieni, lì da Maltagliatti, e poi l'aveva fatto pagare. Sì, ma io non ho soldi, li togli i soldi. Sì, vabbè, la colazione cosa vuoi che sia, un cappuccino, un cornetto, fagli pagare una cena invece. Penoso Giovanni, un cappuccino, un cornetto, ci aveva pigliato, aveva portato un mezzo negozio, ma in epoca mi diceva io tutti vi offro la colazione, mi pare che niente così. Ah, così è. E beh, se Polito soldi non ne aveva, come ha fatto? Cosa l'hanno messo? A lavare le tazzine? Ah, ce li aveva i soldi, cosa non ce li aveva? Se vi rubava anche il resto, si faceva, pagava la roba e poi si teneva il resto anche. No, ce li aveva Polito i soldi, non ti preoccupare. Lì l'ha accompagnato Antonio Rivetti, mi aveva detto a casa sua col taxi. E gli ha detto, guarda che pago, e gli ha detto, non lo lasciamo, non ti preoccupare. E ne ha tolto una mazzetta di 10.000 lire, cioè c'è 100.000 lire in 10. Milioni. Non risponde. Magari ne ha ingranciti la mamma, o la giuretta, però che la piace prima. È capito, altrove non l'ho chiamato, ma non risponde. E vabbè, noi l'abbiamo prenotato già. Oh, a quella di giorno, se due vecchi romani ne ricruccava porto balcone. A quella di gnogno, bel elemento anche questo. Se due vecchi romani ne ingrancia all'emiciclo, vabbè, quei tempi erano, tempi che furono, adesso non c'è più. Viva Gesù, gappa gappa. E io ordiniamo una magnum di champagne stasera. Ecco, cade vai. Sono impegnato domani mattina, non devo bere, io bevo la mia razione, come faccio sempre, e poi basta così. No, lo champagne è secco terribilmente, a me non piace. Proprio secco, a me piace lo spumante dolce, quello moscato. Champagne non mi è mai piaciuto, l'ho gustato al matrimonio. Passa via. Ho ordinato un tavolo sotto la TV, vabbè ce n'è quattro di TV di schermi, poi ci guardiamo anche l'Italia stasera. Perché l'Italia gioca? Sì, Italia-Macedonia, se non vince non partecipa ai mondiali. Ah, molto male. E beh dai, la Macedonia non la susserà. Non so, ma per pure l'Argentina in ballo, attento, l'Argentina di Messi. Capito? Che è in ballo anche lei, se non vince fuori dai mondiali. È un mondiale strano, E comunque se l'Italia non ce la fa nemmeno a qualificarsi, non è Italia la mondiale, dai. Infatti non partecipa se non vince. Capito? Passaggio diretto a punteggio pieno c'hanno la Spagna di Ronaldo. Capito? La Spagna, la Germania. Quindi sono a punteggio pieno, quindi sono già qualificati per i mondiali. E lui, con la squadra di Calabria, sono finiti i tempi di Del Piero, di Totti, sono finiti chi si tempi, capito? Tutti i ragazzini sono adesso, hanno un sacco di cose da imparare ancora, prima di essere convocati in nazionale italiana. Quando è che avevamo vinto? Nel 2006 era, no? Che mi pare che Media World aveva detto compratevi il televisore, se l'Italia vince ve lo paghiamo noi, ho pagato per i televisori. Che ci sono giochi di Garruzzo che fatene per vogliare la gente a pagare. Oh, ma non capisco Giulio che fine ha fatto, cosa è successo? Attento Giulio, stava vendendo i 440 caput. Beh, avrebbe cambiato già baracchino, no? Sì, magari aveva la gente, l'ultimo non telefonato, non lo so. Ma ti ricordi a me cosa faceva tempo fa il mio? Non te lo ricordi? Stavo parlando e mancava. Anche il display si appariva le punti. No, il mio non il 440, il 430. Mancava, e dava un colpo e si riprendeva, un colpo e si riprendeva, una volta Fabrizio l'aveva messo a posto. E poi prendo la colpa e avevo bruciato il frequenzimetro. Praticamente i decimali non si vedevano più, eccetera. E mi avevano messo il frequenzimetro nuovo. E sono radio bici. Cosa? No, infatti, conviene prendere un baracchino buono di ultima generazione. sono già usurati, non è che lo facciano per cosa, ma perché siano difettosi, ma sono usurati. I pezzi, diciamo, tutti i componenti hanno usura, è normale che prima o poi parta. Ma l'ultima volta me l'aveva messo a posto Fabrizio, il 430, non me l'aveva detto. Ho detto, vabbè, prima o poi ti lascia a piedi, prima o poi ti lascia a piedi, e infatti me l'avevo lasciato a piedi. E anche quello l'ho dovuto mandare a Bianconi l'anno scorso, quindi. E così so, materiale che oramai ha fatto i suoi anni e quindi basta un'interruzione di una pista, una cosa che inizia a difettare, cioè, però il 430 è più, da meno problemi del 440. Il 440 con questa cosa dei condensatori è terribile. Non lo mio, mi sto toccando. 180 euro ho speso l'anno scorso e adesso mi dura 10 anni. Ma il mio, quello che avevo io ultimamente, il 140, è quello che c'ha coso, Valerio. Certo che sì, ma il 140 non ne fa difetti, 140 o si blocca del tutto, non fa di più, ma non ne ha difetti come il 440. Capito? Poi anche quello mi sembra che tu l'avevi fatto, come si dice, non revisionare, tarare alcune cosette anche tu da Fabrizio, quindi la radio è nuova, non c'è nessun problema. Sì, sì, erano attaccato tutte le cose, tutto quanto, aveva tolto una cosa che avevano messo in più, la lasciata originale, l'hanno messo in parte come da fabbrica, insomma, l'hanno fatto ritornare tutto originale. Così voglio la radio allora. Questo perché pensi che Mercuri quando l'ha tutta, ha cambiato tutti i concetti e tutto, l'ha tutta revisionata, quindi ha fatto tutte le tarature con gli strumenti che vanno tarati, questa in FM da 80 watt come da a casa, in AM lui me le voleva mettere 40 come da a casa, ho detto mettimi almeno 50, 60, infatti così. Non era più 120, 130 come quando gli avevo mandata io che era tutta scacciavettata, questa è tornata nuova, perfetta come dalla casa, capito? Ho fatto tutte le centrature in banda laterale, l'SB, USB, tutta revisionata, ma è caro, grazie, è caro, 180 euro, mamma mia. Io ho il 430 e il 440 per la 27, no? Questi non vanno mai da nessuna parte, sono tutti e due diretti con la Mantova, capito? E adesso c'ho il Galaxy in funzione, quindi comodo il Galaxy, ma il 430 e il 440 sono i miei due baracchini a sintonia continua. La DHF sono un'altra cosa, io c'ho lì come lo Iaesu Gianni, no? Lì c'è un altro gruppo di antenne, lì ci sono le direttive e quelle due radio lavorano con le direttive, no? Qua c'è solo la Mantova diretta e basta, no? Non c'è niente. Questi sono due baracchini a sintonia continua che io ho sempre usato in AM e userò solo in AM, no, non li ho mai usati io in banda amatoriale. In banda amatoriale io ho lì come lo Iaesu e basta, capito miei? Chi se la fa guba, no? E mettiti a fare collegamenti con 440, tu gli arrivo ben bene, ti è un po' rumoroso, sì. Anzi, meno rumoroso rispetto a un 140 e un 180. 430 se lo mangia come ricevitore a 440, non ci sono dubbi. Molto più selettivo, molto più silenzioso. 430, nonostante abbia i filtri questo, ma è sempre rumoroso rispetto a un 756 o a uno Iaesu, capito? Non ha niente a che fare, cioè quelle sono radio digitali e queste sono radio analogiche, non hanno niente a che fare. Altra guba, altro bianetta, capito miei? Va bene. Marco, ma è questa barba che tra un pelo e l'altro ci vuole il tram, fatta tra. No, dopo. Non c'è fretta. Guarda, il 140 era rumoroso anche in macchina. Cioè una volta lì a San Francesco l'ho portato in macchina per ascoltare, con l'antenna tarata per i 40 metri, no, con la Proxel, con i ponticelli, no. Era rumoroso anche di QRM persino lì, invece l'857 bello silenzioso riceveva bene i segnali, pur essendo rumoroso anche lui, con quell'antenna lì da macchina veicolare corta riceveva splendidamente. Ma l'857 è piccolo ma consistente, è una signora radio. Sto scherzando, c'è un sistema di ricezione superiore al 200-300 rispetto al 140, è un 440, un 430, sono radio di ultima generazione, ecco. 40, io ci ho provato una volta, come ho commutato all'ICOM, mi sono messo il traddo, sia come segnale che come ricevitore, cioè completamente là tutto il fuscio, proprio tutto il coso del QRM appresso, con l'ICOM manco, non sentivo niente, vabbè, diversa antenna, tutto, però radio per fare HF vogliono consistenti ragazzi, non ce ne vogliono di giocattoli, no. Se vuoi fare veramente radio a livello amatoriale, quindi di DXC, partecipare alle cose vere e proprie, se poi Lucy, ciao come stai, ci sentiamo, allora va bene anche un baracchino col trasverter. Eia. Beh, devo sempre dare a Antonello Diossi quel trasverter, che non trasmette, non funziona la trasmissione, e lui lo voleva per ascoltare i 40 metri da casa, anche con la 5 ottavi va bene. Certo è una paranoia per le frequenze, perché praticamente devi muovere i canali e aspettare di sentire qualcosa e poi chiarificare. Trasverter della Electronic System, quello solo 40 metri, 40-45, se no faceva quello triplo, 20-23, 40-45, 80-88 metri, super pirati. Sì, sì, le bande, beh, gli 88, i 45, sì, già va bene, no, con la manta va, ricevi tutto, ricevi bene i 20, ricevi bene i 10, ricevi bene i 15, ricevi bene anche i 40, perché insomma si fa i sotto tutti, 7, 14, 21, 28, non ci sono problemi. Ricevi benissimo per ascoltare, capito? Va bene, boh, facciamo a Giulia Vigoglio se ti ci aspetta. Ehi, chiamalo da, meno che non sia mancata la luce per lavori, da, chiamalo proprio un po'. Caro Gianni, e caro Natalino anche. Natalino, ci sei ancora? Ehi, sono qui. Ehi, male a mangiare, avrei preferito stare di chiudo tutto il giorno, ho fatto colazione alle 9 e almeno riesco a mangiare qualcosa in più, dai, e va bene, dimmi già, doppio rotto. Adesso vedi, ma chi ha il telefono, vai a risponderti, ti do il telefono, no, mi sono buonietti, come l'ho fatto l'altro giorno, l'ho svegliato. Che ora? Sarà qualche vicino che ritiene di essere disturbato? No, peccato che il mio telefono, se tu guardi sulla guida, non lo trovi perché è privato, non l'ho messo sulla guida. Ah, vabbè, meglio così. No, il nostro ce l'ha tutto il mondo ormai. Sulla guida, sì, forse ci siamo. E il call center anche chiamano numeri a caso, capito? Danno una serie di numeri, anche ieri al cellulare, pronto, sono le parlo per Team Italia, Telecom Italia, e io track chiuso in faccia, è una cosa continua, basta veramente, avete rotto i camagici. Ho chiamato Giulia, niente di nulla, è dovuto uscire in fretta, urgente, che la moglie aveva bisogno di una commissione urgente, sta rientrando, infatti ha lasciato tutto acceso. Ehi, mille stimolo, uia, meglio che faccia adesso, sennò che non mi cago a cena. Chiarita, quanto si è messo male. Volete sentire il suono in diretta, l'odore? Passa via. Uia. Va bene. pulsante dietro. Una trafila avevo da Genesi a te. Una trafila, sarebbe la trafila. Mi spiega bene un attimo di cos'è. È un pezzo di litografia, la blettemmo, quello da idraulico, che ci mettiamo il sasso, a rizze. Ah, anche un pollice filettato, capito, quelli da idraulica. Se ti entra un pollice dietro sei molto largo, eh? Beh, no, non credo. Quanto è un pollice? 2 cm 54. No, allora un quarto di pollice, diciamo. Beh, mezzo pollice andrebbe, ma un pollice, anche un tre quarti, insomma, ma un pollice sia un po' troppo largo, Ma Poletto, eh? Poletto è larghe vedute. Mi stai preoccupando, ci sei misuri di Poletto, mi stai preoccupando. Non ti preoccupare, qua è a senso unico, vietato l'ingresso. Ma Rugatello dice a senso unico alternato, sta attento. No, non esiste proprio, non esiste. Antari, avevi idea di te? Ma doppio room, sei caduto in Catalessi? No, sto con la mattaglia. Che è venuto e si è tutto strusciato. E intanto quel microfono continua a fare quell'effetto di ieri, gracchia, quando attacchi. Sì, quando c'ho tempo ce l'ho messo a posto. Quando c'ho tempo li metto un po' di cereccio e c'è a posto. Controlla però. Perché gracchia quando premi la portante. Giovane, a che si attalla? Cosa si sente? Ma cosa hai usato in tema di Carinzia? Come usa Marco? Parla di rimascia, non è parla. Ci ha raccontato queste misure, mi preoccupa, cioè, io ci tengo a Marco, sennò ci manca poi il pipistrello nel canale 10, è un casino, vale, capito? Marcolino! Ehi, no, ma io dicevo una misura più grande per forzare, no? In modo che non si spazi. Esiste un poco una barra filettata con lo controllato e hanno il tappi nuda, tranquillo. Dato e controllato. Non si sa mai, tu sei pericoloso, capito? Magari è una di quelle scariche potenti e se ci lo dato, ammazzi a seduno, allora è buon col controllato. Oia, per carità. Già va bene. Quale siamo? Il sugar. Non passa più l'orario oggi, 7:20. Vediamo un po', se riesco a portarlo prima che faccia buio a Pippetto, adesso mangiato, lo sicuro, che nel lettino, su, lo da qua. Poi a una certa ora ce ne invece, che è già pronto. Cioè, il sole tramonta alle 7, proprio scompare all'orizzonte alle 7, qui porta alle 7 e vedi ancora la luce, chiaramente. Alle 7 e mezza è già buio invece. Riprendi già, mi sta chiamando mia moglie. Ehi, oh signor, c'è oggi mamma stava piangendo perché è morto il cane di quello di sotto. Ha detto, ma non è tuo il cane, solo che si era affezionata, gli dava da mangiare. Purtroppo era cane vecchio. Niente, ho detto, ma quando mai? Sì, vabbè, è simpatico, ma non ti puoi fare mettere problemi degli altri. E infatti. Era un pointer, una femmina di pointer, quelli bianchi e neri, così si chiamano un po'. Chiacciato, dai. Il cacciatore lo usava per la caccia, poi però è da 2 anni che non fa più, se l'ha lasciata tranquilla. Era molto simpatico come cane, molto simpatica era, anche loro erano tristi, perché quando c'erai, caspita, da tanti anni ti affezioni, e vabbè, e allora quando quando muore un gatto qui, una ha già 6 anni, metti che fra 7-8 anni muoia, ne fa la malattia a mia mamma. E lo so, a me per esempio il pastore tedesco si è ammalato invece. Eh sì, è durato pochino. E purtroppo cani e gatti, la vita è quella. E vabbè, uno non se ne piglia di animali e non soffre, oppure gioia e dolore, no, finché stanno bene ti diverti, ti tengono compagnia, ma poi vabbè. E gli ho chiesto quello di sotto, ma ne prendete altri? Dice, beh, adesso una cosa ancora calda no, forse in seguito, forse. E se lo prende si piglia lo stesso tipo di cane, il pointer. Il pointer ce l'aveva mio cugino. E l'altro c'aveva un bracco. E sono belli quei cani. Adesso c'ha ancora, l'ha preso da un'amico mia di Alghero che li alleva, un setter c'ave, ma è vecchio adesso, col pedigree, da quando gliel'ha fatto pagare. Doppio un bel cane. Adesso però è vecchio. E poi questo cane, sai perché? È morto per tumore e insufficienza renale anche. Diciamo che non è morto di suo, l'hanno portato al veterinario e hanno detto che tanto se lo operavano ci restava e gli hanno fatto l'iniezione per non soffrire, capito? Quell'iniezione nel cuore. Credo che sia sodio, non lo so. Si ferma il cuore e così non soffre più, dai. Sì, infatti. Luia. Ieri ho chiamato da Bancali, lì, nel solito posto, ho sentito Pomponio, PMR. Ho sentito solo che ha detto, sono sulla strada per Alghero. Stava tornando da Alghero, non so così. E poi non ho più sentito altro. Se fosse stato a casa l'avrei sentito e come, dai, però capita, quando io sono là, lui a casa non c'è mai, non c'è mai, e quindi la prova non la posso fare con nessuno. Gian Maria entra tardi, quando entra pure, e vabbè, pazienza. Cosa vuoi ti dire? Io non sto accendendo più nulla, la sera accendo qua e boh, mi sono scoglionato. Ehi. Claudio, sei ancora qua? Sei andato a portare il cane? No. Poco fa, allora dammi da mangiare, la sta lì. Così lo porto giù, alle 7:30, finisco. E allora lo passo da te. Sì, signore. Oh yeah, sempre che cammini la macchina, sai che mi sa se si sta spegnendo, non vedi il volto, si accende quella spia. Adesso non lo sta facendo più da mesi e mesi, no? Come è arrivato il caldo di nuovo, me lo sta facendo, te lo immagini. Come è arrivato il caldo, di nuovo il sole, mi sta di nuovo facendo la pace, si spegne, poi lo rispegne, la riaccende e parte. Boh, se non si comprende cosa sia, il meccanico non ne ha capito, è che devo portare alla OPE. Poi è diagnosi bisogna fare. Era fatta quella della OPE, però ha detto che non si capisce se è un sensore o l'altro, perché ti siede ascensore, pedale e acceleratore. Si era già fatto pure l'acceleratore, sono andato per lui che ho preso uno di una macchina sbattuta, nuova, era uguale alla mia. Però l'abbiamo tolto, della piazzata, però meno con questo. E i sensori non si trovano al ferrovecchio? Ma nel vanno non lo so se verrebbe questi sensori di merda. Tutte le opere così ha detto che sono tutte le opere che c'è un po' il difetto. Il meccanico, però dice bisogna andare alla Opel perché quello che ho io, il meccanico generico, è bravo perché è bravo, però non c'ha l'attrezzatura della Opel, capito? Lui fa Fiat, fa tutte le macchine, però lui ha una concessione per la Fiat, no? E ha detto che quell'attrezzatura lì non ce l'ha per quella macchina lì, ci vuole una cosa particolare, capito? Sì, ce l'ha la diagnosi, ma gliela fa in generale, capito? Non è quella la diagnosi. Prepara Martini, che alla Opel sono dei ladri. Alla Opel ci sei bisogno, come ti entri un figlio ci sei bisogno. Se ce la faccio non la prendo comunque, so che vada bene la situazione. Oh, notato, aspetta, quando avevo bisogno io, tipo il vetrino dello specchietto, 80 euro, pezzettino di vetro. Ma i fumi e deve panorare 80 euro, rifaccio la chiave col codice 80 euro, perché sennò senza codice non accende. Gli chiedo quanto costava la plancia togliendo la vecchia autoradio incorporata, 80 euro. L'altro giorno il comandino doppio dei vetri elettrici, ma tutto 80 euro costa, eh? Ogni cosa 80 euro. Ascolta. Ma che tu sei, diciamo, fatto bene a fare un vecchio, ti smonti il pezzo che ti serve, come la macchina è vecchia luce, non fa mettere il pezzo di buco, perché anche non va a cantare a fare un vecchio che ti ripiace. Oh già, ma sì, ho fatto la 600, l'ho tutta messa a posto, no? Tricurie, c'era cioè, sbattuta, eccetera. Ma cioè, nei fari, le parabole praticamente consumate, quindi fari davanti. Anch'io stavo facendo, come hai detto tu, no? No, mi compro fari nuovi. Sono andato da Marcello, due fari davanti, buoni, in buonissime condizioni, le parabole buone, eccetera, 30 euro l'uno. Vado alla UPAS a Predanieta, 36 euro l'uno nuovi. Ma che sono ladri già, li ho messi nuovi, li ho comprati nuovi i fari. Lo so, ci giocano mia, anche al ferro vecchio. Sì, ma scusa, una macchina in demolizione, te la porto per demolirla, tu mi togli tutti i pezzi buoni e poi te li rivendi, capito? Ma non lo puoi vendere 30 euro un faro anteriore di una 600 quando costa 38 euro nuovo, anzi costava 48, con lo sconto di Roberto 30, poco più di 30 euro, li ho comprati nuovi, tutti e due, cosa stai a comprarli usati? Nuovi! Nuovi, perché la mia è un SX, quindi c'è la regolazione automatica da dentro col motorino, e quelli erano anche senza motorino, quindi figurati tu. Ehi, poi questi ferri vecchi ti vogliono vendere mezza portiera, ecco perché io l'ho comprato nuovo. Quando è nuovo, sai che è nuovo e ti dura una vita. Non mi piace andare lì, poi ti fanno aspettare un bel... Ehi, vabbè, dai. Mamma ha detto vai lì alle Opel e ti ridanno pure subito. Per questa volta abbiamo fatto così. Lo sportellone di dietro, 100 euro usato, diverso colore, capito, qui da verniciare lo stesso, no? 100 euro. L'ha ordinato Roberto, l'ha comprato Roberto, ha pagato 120 euro nuovo, nuovo, lo sportellone di dietro. Eia, sempre da verniciare o verniciato? No, da verniciare, e questo numero chi è? Aspetta, ecco. Ragazzi, forse viene anche Antonio Barracuda, se ce la fa. E ci stiamo? Dai, casomai uniamo due tavoli. Ci stiamo, lo facciamo un po', so, cazzo, prima pretendo dirlo e poi ci stiamo. Certo che ci stiamo. Aggiungi un posto a tavola, che c'è un amico in più. Ah, io mi voglio sedere in braccio a Natalino. Ah, tu sì che mi capisci. Perché se ti siedi in braccio a me poi ti sollevi da solo, come se avessi il qui. Il clic idraulico. Ma come dire che Natalino invece a Natalino non si solleva nulla, così è. Io non ho detto questo. Non mi mettere le parole in bocca che non l'ho detto. Beh, meno male che l'ho contattato, dai, se no volevo telefonare io da casa. Ho caricato internet 5 euro ma non ho credito nel telefono, c'ho solo l'opzione internet carica. Vabbè che WhatsApp permette di telefonare anche volendo, solo che è tutto non si capisce nulla certe volte, se il segnale non è ottimo si sente tutto male. Arrivito sono. Ci stavamo preoccupando, poi Claudio ci ha delucidato. Sì, sono uscito, sono dovuto uscire così velocemente a fare una commissione al negozio. E mi ha lasciato su tacchiere, già me l'ha detto mia moglie, lei che ti stavano sempre chiamando, ma te lo potevo rispondere, ah non mi interessa a me. E beh, Claudio, al telefono è da. Comunque, ridendo scherzando, insomma, tra fare varie cose, poi arrivano le intermedie che sono ancora in perizoma. O per non dire di peggio. Vai a ritirarti, vai. Ma solo sei rimasto, chi c'è? Oh, già c'è Gianni, Natalino, dai, anche loro forse si stanno preparando piano piano. Anche loro si stanno depilando, Marco. Ah, no, no, ma la barba è poca, mi sono mezzo millimetro e potevo lasciar perdere, ma sai, vediamo, dai. Tipo grattugia, dai, quando è così corta è tipo grattugia. Quella mia è molto rada, rada, cioè se mi volessi far crescere la barba non è fitta, capito? Non sarebbe nemmeno una bella barba. E quindi mi rado quando posso, dai. Ce la mangio con la barba, così mi sembro più vecchio, anche perché la mia barba è mezza bianca e mezza nera quando cresce. E quindi sto invecchiando. È una barba astratta, hai tu. Un pochino così a carta geografica e a vari colori. Diciamo che Juventina è bianco-nera come barba. I colori sono bellissimi allora. E vabbè, dai, figurati, beh, è un po' tutti così, eh. La mia diciamo che è già praticamente bianca. Anche i capelli, quei quattro ciuffi che mi sono rimasti. Eccomi qua, scusate che ero al telefono. Chi era? No, niente di che. Uno che voleva delle informazioni. Ah, non un partecipante, ma Elio Piuma viene, sì? No, non gli ho detto niente. Come no? Non avevi detto che c'era anche lui? No, l'ho detto a Stefano, ma lui so che era impegnato, eccetera, eccetera, quindi non gli ho detto niente. Insomma, alla fine siamo quattro gatti. Sì, c'è anche il topo. Sì, siamo, non ti basta. Vabbè, se viene anche Antonello siamo in sette. E quindi cosa faccio? Un'altra sedia bisogna mettere. No, io ho già detto a Natalino che mi siedo in braccio a lui. Cioè, se le cose dobbiamo fare, facciamole prima. Io sono telefonato, se vorrei telefonare per aumentare un'altra sedia, un altro tavolo. Adesso ci provo, cosa vuoi che vi dica? No, uniamo un tavolino piccolo al tavolo più lungo. Ma è confermato Antonello? No, è in forze. Non mi fate fare figure di merda, per favore. Gianni, chi l'ha chiamato Antonello? Gianni? Aspetta che si è allontanato forse. Sì, Gianni ha chiamato Antonello, forse ce la fa. Però vedi, è in forze. Serviamo in 200. Una rovina, si dire. Ma chi la sedi? No, la sedi di 12 quanti sono fatti, Siamo una settimana che ne stiamo parlando, invece di ascoltare, basta entrare. E sai cos'è? Dovevamo avvertire le persone da prima, Antonello, eccetera, e gliel'abbiamo buttata così perché mi è venuto in mente. Visto che Pomponio non può. Pomponio mi diceva, io quando andiamo a pigliarci questa pizza, dipende da quando è libero lui. Già gli mando le foto, amico, quando siamo lì a mangiare, così schiatta. Tu riga di mussolini, perché dai, li prendi giù. Ok, qua. Vabbè, dai. Evidentemente no, non possono venire. Ma comunque, può essere che all'ultimo momento decidano. Vengono anche quelli che dovrebbero venire tutti, insomma. Vabbè, cosa dire? Comunque, la partita che era alle 9:04, diciamo che ce la guardiamo, è stata pace, tranquillo e pacifico, nel televisore grande, sdraiato sulla poltrona. Vediamo che non possiamo venire un giorno, ma come giocheranno. Ah, ma non credo, dai. Vabbè, comunque, staremo a vedere. Comunque, ha anche convocato quel giocatore del Cagliari, hai visto? Anche il Cagliari si sta affacciando alla nazionale. E beh, tutti senza parole, certi. Va bene, fortunatamente mi hanno dato un tavolo da 8, quindi non c'è problema. oramai ci fa pagare il coperto di quelli che non vengono. Ma non me ne fotti nulla. Gianni, dov'è? Sei confermato Antonello, mi fa piacere se vieni. Ok, il posto c'è, non c'è problema, il tavolo è tanto da 8, ma non si preoccupi che il tavolo è con due posti in più, quindi giusto per stare comodi. Va bene, meglio così. E io portatevi le consorti anche, così diventiamo il doppio. Io mi porto con la mangiare di mia madre. Io mi porto a Falcone. Ciao Antonè, mi dispiace che sei occupato dopo. Devo fargli da mangiare. Sono le 7. Aspetta un attimo, adesso vediamo un po'. Secondo me faccio scendo giù. Ti faccio sapere fra 5 minuti. Però mica i posti sono prenotati, mi Antonè. E tu mi hai detto che non venivi. Ma per dire, non poteva stare Simona con tuo fratello? E a te ti dava la serata libera, no? Poi, per carità, la serata per lì, cazzo, io già lo sai, sapevo c'è liquidi critico ogni tanto. Già lo sai che vengono le crisi, vuole sigarette, birra, quindi se sente una persona che fuma, è come andare a nozze. Basta dargli due schiaffi e gli passano le crisi. No, perché Simona le fuma davanti. No, ma loro le fumo, lo senti, no? Nelle magliette, cose del genere, uno che non fuma se ne accorge, di cosa è quello lì, capito? Non so se hai mai notato tu, in qualche posto dove c'è gente che fuma, poi esci fuori, sei più fumato tu che non hai fumato nulla, nelle magliette, che hai capito, si nota, se uno che non fuma lo nota, da un chilometro. Vabbè, su questo sì, io fortunatamente non fumo, sono qui nella mia cameretta, se no esco fuori. Va bene, ok, avanti Giulio, tanto mi sto preparando, sono già le 7, se riesco a portare a Filippo prima, che faccia buio è meglio così. Ti conviene portarlo subito Claudio, adesso che ancora c'è luce, dai. E io adesso mi preparo, dai, mi prendi giù. Ok, ciao Antonè. Vabbè, partecipa anche tu, dai, alla pizzata. Una cosa che si fa ogni tanto, per cui va bene così. Non so, purtroppo se tu sei impegnato per quel discorso, evidentemente non puoi muoverti. E vabbè, dai. Avanti Marco, informati stasera. Sì, così, dai. Diciamo, sono contento che ogni tanto si fa qualcosa, dai. Sarebbe stato bello che venivi anche tu, però hai detto che, non so, hai mangiato la pizza da poco, ma tu potevi pigliarti qualsiasi cosa, fai nei piatto composto, lo sai, qualsiasi cosa, lì è il ristorante e pizzeria, e quindi lì ti servono tutto quello che vuoi. Lo so, questo sì, non ci sono dubbi. No, ma allora sì, preferisco il porcetto, il porcettone, non il porcetto, il porcettone preferisco stanotte, per cui va bene così, sto bene a casa. Se porcettone anch'io avrei scelto questo. Antonello, bisogna portare 100 euro a testa stasera. Allora vado con subito di Emanuele, fermo quella sessuale di ieri, cazzo che mi ha messo il cane in mezzo ai coglioni. E ricordami 100 euro, devo andare a mangiarmi la risposta. Sempre sboccato, mica c'è Giulio a me. No, sto scherzando, 30 euro a testa massimo, 35 io ne ho, forse 40, adesso non mi ricordo. E cosa vuoi che ci mangiamo? Mezzo ristorante. Poi se non paghi già ti lasciano a lavare i piatti. Sicuro, no, adesso non dipende da me, già lo sai. Allora che lui di solito mangia alle 8, se gli presento cazzo la pizza alle 7, mi tiene quelle a barre, il rischio è quello. Se no volentieri guarda. Sono orari all'una e mezzo, alle 2, perché lui si sveglia a quell'ora, la mattina e poi la sera verso le 8. Il discorso è quello lì. Al limite, fra 4-5 giorni, io sono fatto la domanda per caso sono sia presente a casa, quindi sono libero. Almeno tutta si liberano i compiti, capito? Mi viene molto più facile, non devo dirlo. Posso dire? Beh, stasera figlio e gli organizziamo, ci siamo trovati in pizzeria. Ma la mamma ha fatto quella domanda. Beh, dammi un coso, un bandante 1300 euro, virgola 90, paga il comune. Ehi, comunque, guarda, se riesci a convincere Simona, se sono insieme agli abiti lavati da poco in lavatrice, che non sappiamo di fumo. Guarda, Claudio alle 8 arriva Valerio da lui, e quindi dopo le 8, poco dopo le 8 esce di casa. Non lo so, vedi tu, dai, se ce la fai è cosa buona, dai. Se no già ti mando la foto di noi mangiando, così schiatti. No, io non ho schiato per niente, ci ho preso le pizzerie allo spin poco fa, ne ho preso due, una per mio fratello e una per me, capito? E quindi è molto difficile, cioè che riesco a farlo mangiare alle 7, ma è molto difficile, capito? Aspetta, appena ciò ne rientro a casa, sta tranquillo che andiamo in pizzeria, perché non mi vado io. Se no mi ci andiamo a fare la gialla, se non sai cosa fare, ma di mattina. E se la tocca in culo, alle 2:30 andiamo lì e mangiamo. Primo, secondo, terzo, c'è anche la pizza a pranzo. Qua per fiago di diavolina, qualcuno sta accendendo il camino, quello di sotto. Sento odore tipo diavolina, per dare lo starter per l'accensione. Bene, ma io, vabbè, sono le 7, sì, vabbè, io sono a piedi, io 3 minuti e sono su. Il bello che è vicino a casa, quindi in un attimo sono su, dai, altro che pigliare macchine. Sono fortunato da questo punto di vista. E in quale pizzeria vai? Quella c'è via Pulizetta? Come? E in quale pizzeria andate? Quella c'è via Pulizetta? No, Gorizia, fronte al bar Firenze. Quindi via Gorizia, infatti. Non ci sono mai stato, la verità. Ma che via Pulizetta mi dava... Non ho visto mai ci sono i tavolini. Pizza d'asporto e più pizza normali adesso, quanto mi ricordo io. E dipende anche altezza. Io so che all'inizio c'è un fast food, però lì prendi e te ne vai. Fanno panini buoni, pizze, forse patatine fritte, adesso non ci vado da secoli, Non ci vado da secoli. Riprendi Giulio. Sì, riprendo e vi lascio, dai, che devo dare una mano a mia moglie qua. Ciao Marco, ci sentiamo le prossime. Buon divertimento per la pista stanotte. Ciao Claudio, ciao Antonello, Gianni se stai ascoltando, Natalino, tutti quanti, insomma, dai. Saluto a tutti, io ascolto magari il vostro finalino e poi devo spegnere perché devo scendere giù in tavernetta. Riprendi pure di nuovo Marco, dai, ascolto il finale e chiudo. Ciao Giulio, mi sto preparando, a domani. A domani, Claudio, ciao, a domani, ciao. Ciao Giulio, a domani ci sentiamo. Ciao Giulio, alla prossima. Ciao Natali, malvado. Ciao Giulio, buona serata, buon tutto, a domani. Natalino. Oh già. Yeah. Beh, come va? E come vi arriva? Cazzo, sono andato ieri al centro storico, per carità. Un troviario è diventato via quella via con subito di Emanuele. Cesso che schifo, cazzo, come la prima, come adesso. Hanno aperto un bar nuovo, poi adesso stavo riaprendo quello dove abitavo io, nella palazzina dove abitavo io. Poi ci sono due bar che sono di Negri, a Corte Semmo. Già lo so. È uscito l'articolo sul giornale oggi. Spaccio, aggressioni, ogni tanto esce di testa uno di quelli neri, esce scalzo a petto nudo, a voci, la gente fuggendo. E ha detto, se sono le parole, italiani di merda. Sì, già lo so, già. Ho visto la fotografia ieri, anzi da ieri c'era sul giornale, c'era quello del tabacchino che c'è. più su in Corso Vittorio Emanuele, quasi alla, attaccato al coso, all'albergo. Cioè lui e altri tre, cioè, figurati, dice non si può più vivere, dice così, dice, siamo destinati a chiudere qua, perché non è possibile, è diventato una, un coso, è diventato una terra di nessuno, sembra, capito? Come la o e basta. Lo so, è diventato uno schifo Corso Vittorio Emanuele Basso, proprio uno schifo è diventato. E quello del tabacchino, mamma mia, quando chiude la sera deve stare attento, soprattutto in inverno col buio. Purtroppo gliel'abbiamo permesso e vabbè, adesso ce lo teniamo. Cosa mi ha detto Natali di lavare i piatti là? Eia, già è tempo che non ne lavo piatti. Allora già sei anche là già. Sì, sì, è in ascolto, così se entrava qualcuno sentivo. Mi parla di qualcosa, dimmi qualcosa di dolce. Dimmi qualcosa di dolce. Come Antonè? Marcolino, vado a portare il cane, dai. Ci sentiamo tra un po', ok? Tanto vado e torno. Ehi, ma vai però, se no fa buio. Stai montando in varo, mi stavo preparando. Cioè che io ci tengo, devo uscire, magari trovo qualche pischella, capite? Ehi, comunque Gianni, che c'è rimasto, Natalino, Pomponio, io devo andare davvero a prepararmi, se no alle 8:30 sono ancora a culo nudo. Ciao a tutti, chiudo. Ci vediamo a quell'ora lì, dai. Ciao, ciao a tutti, ciao Gianni, Natalone, Pomponione, a tutti, dai, ciao. Ciao Marco, ci sentiamo a domani, ciao ciao. Ascolta, dagli a tuo fratello, dagli qualcosa per dormire, dagli il Rohypnol, così almeno te le liberi e vieni con noi. Magari sarebbe stato così facile, cazzo. Già passato 3 giorni in merda con lui, cazzo. Sono venuti in crisi, gli aveva detto poche cose, cazzo. Non te lo dico nulla, cazzo. Dopo 3 giorni di pazza, hai capito? Quindi me lo devo sopportare finché adesso quando arriva quello. Ho già fatto il contratto, fra 3-4 giorni arriva meno male una persona, se lo tiene così sventia. Oh, vi ha insultati così, ve ne avete di tutti i colori? Sì, beh, tutto quello l'altro giorno, 3 giorni intieri, mi ha detto che in pratica lui camminava con le sue gambe per tornare ad arrivare in casa, eccetera, eccetera, che l'ho rovinato io, eccetera, eccetera, che lui non c'ha niente, mi sono pensato, mi ha detto poco di cose, ha detto allora fa la cosa, e allora ti ho detto qua ti prendi le sigarette, gli ho detto la birra tua, gli ho detto con le tappelle, ti approfitti perché dicevo cammino, allora ho detto se lo cammino, ho detto perché te l'ho fatto io, ho detto avanti. Che faccia che ha, che l'ha rovinato tu, dopo tutto quello che si è bevuto ha il coraggio di dare la colpa agli altri, e purtroppo se trovate l'assistente datela, se no vi mette in croce, non potete più uscire. Beh, se ho per dire una cattiveria, dice per stare così era meglio che siano andate in cielo, di la verità. E già lo credo. Non cattiveria, alla fine se non recupera, se non camminerà più, se non... è una croce per i parenti e va bene, dai. Devo andare, dai, mi devo preparare. Ciao a tutti, ciao, ciao a tutti, ciao a tutti. Via, ciao Marco, ci sentiamo, buono. Preparazione. Buona cena per stanotte. Al limite, portatevi così almeno vi fa sentire l'odore della pizza. No, io ti faccio sentire i russi, via radio. E già va bene. A voi, sono entrato a toccare la palma, sono andato al cieco e mi sono venduto il vino che avevo preso. Sì, si sa. 4 litri di vino. Yeah, ciao, quel di esecutivo, ciao. Sì, yeah, ciao, ciao. Allora, com'è la situazione? Valerio. Aspetta che sono col culo fuori. Cosa? io sono qualcuno fuori. Per carità, non ho visto che... Valerio? Stavo qua, Come si? Oia. Ancora devo prendere la... con la battaglia. Siamo ancora a arrivare ancora. Scende qua a Sassari, che... È vero. Cosa? Che sembri a Sassari. Vabbè, c'è sempre la linea attaccata. E la Madonna, dice un altro pozzetto. Marco. Eia, Valerio. Ci fanno a schiaffi. Certo. Eia, mi stiamo preparando, la barba l'ho fatta, eccetera. Beh. Dai, io continuo, vi saluto, dai. Comunque, ufficialmente ci ritroviamo un po' prima, tipo 8:30. Poi dipende dal parcheggio, dai. Dal parcheggio che trovate, dai. Beh, vabbè, dai. Dai che continuo. Ciao a tutti, ciao, ciao. Aiù, vai, fai, fai, vai. Metto il collante con le calzarrette, la parrucca bionda. Ah, che bello. Mica lo faccio mi, eh? Mi faccio fare brutta figura. Con quel naso lungo. Come ha detto Dottanino, con questa tromba di naso, come si diceva una volta. Vabbè, ciao, ciao, ciao, non riprendo, dai. Ci vediamo là. Ciao, ciao. Perché deve passare Gianni, Natali? Napoli, a che ora deve passare Gianni? Allora, 8:30, non lo so. Veda lui. Cosa 8:30? Ho detto le 8. Mi fate trovare il tabacchino, oggi li prendi. Ah beh, quando vieni mi va mi chiama, ma oggi io varo. Cosa mi pongo? Mi va a fare una là e mi piglio tutto il vento. No, sono 7:30 adesso. Devo aspettare a Valerio, sono ancora qua, non c'è problema. Cappa di Roger. Beh, Valerio, hai imboccato qualche insenatura, qualche strada di campagna, dove sei, con chi sei? Sapessi con chi sono. No, io ho imboccato la strada per Cagliari, adesso mi prendo la Xamamina, perché questa strada è tutta mezza messa male. No, quella che poi entri da Via d'Italia, eh? Eia, quando arrivo lì alle... Oia, madonna che volo che ho fatto dentro la macchina, tutta gomba, che schifo di macchina, di strada, mamma mia. Si è appena in bocca la strada lì, la Via d'Italia, allora già te lo dico, là. Già va bene, già va bene. Beh, con c'è? Non manco di libera stasera, mi. Approfittami. Conce. Fa fretta da sotto. Allora, ma non ne approfitta che non c'è Natalino in mezzo ai piedi, stare tranquilla. Cosa stai dicendo, Claudio? Non ho sentito bene. Ho detto approfittane stasera che non c'è Natalino a uscire, così non c'è lui in mezzo ai piedi. C'è un freddo da cani e dove vado? Ah, ho fatto una passeggiata, Andy. Tanto non ti bocca mai. Dici che non ti bocca mai, rispondi. Beh, c'è mezza bugia e mezza verità su quello. Già lo so che già ti porta, dai, stavo scherzando, già lo so. Però tu approfittane, guarda se c'è qualcosa, se c'è qualche festa in piazza, vai dimmi, approfittane che non vedo. Ma se non c'è nessuno, dove vado? Avvedomi, ui. Dove andiamo? Sempre rinchiusi a casa. Io mi fatto perché domani sono a casa e c'ho gente, quindi ho detto esco oggi, capito? Tutta la settimana lavoro, esco oggi, almeno mi svago un po'. Se no, cosa pensi? Io sabato e domenica sono sempre a casa, amico, c'è. Non andiamo mai da nessuna parte. Ma lei vai piano, stai correndo troppo, guarda che ti sto controllando qua con l'uomo, hai capito? Valerio! Aspetta che vedo un procinto di sorpassare! sto arrivando alle gallerie, là. Alla galleria, poi ci sentiamo dentro la galleria, ma penso di sì. A quella dell'ingresso via l'Italia, ehi. Sì, 9+30, fai schifo. Ho fatto per collineare, aspetta, che sto per entrare, aspetta. finito te me l'hai nominata. No, oh, che bella che è te, meno male. Mi? Ecco qua, sono dentro, è pronto. Ah, mi sentite? No, non mi senti, non mi senti. Questo è il cemento armato, eh. Ah, cosa non ti sento? Pronto, non ti sento, pronto. Oh, cioè io non ti perdo mai. Oh, io non ci sono gallerie che tengano, no. Grazie alla tua altezza. No, senti tutti e no, non li perdi, eh. No, ma tu quando vuoi fare la prova con me, come vai con un portatile nel terrazzino di casa tua o sul terrazzo e ti sento lo stesso, l'antenna in gomma? Ah, garantito, quello garantito, mi senti sotto casa, figurati, senza lineare. Lo sai, no, abbiamo già fatto la prova, sotto casa tua senza lineare, parcheggiato fermo, e arrivi lo stesso. No, ma l'ho fatta già con un'altra gente, almeno per me è come Sassari, no, non c'è niente. Mi dispiace Giuseppe, che mi è calato una cosa allucinante, non riesco a capire perché. No, non te lo so dire, io lo sento, quando lui attacca il lineare adesso lo sento molto compresso, molto, molto compresso, diciamo che poco si capisce, invece prima quando attaccava il lineare si capiva, adesso sta uscendo veramente male, basso come modulazione, aspetta, stavo cambiando marcia, non ho... basso come Santiago, perché prima senza lineare mi pare, senza lineare mi arrivava 9.30, senza lineare, invece con lineare 9.35, adesso quanto mi arriva? 9.10, senza lineare 9.10, ma dimmi tu. Qua è calato moltissimo, prima era 7.10, adesso è 3, adesso arriva a 7. Quando attacca lineare se non ho QRM ed è un casino, perché prima arrivava 8.5 con lineare attaccato, capite? C'è qualcosa che non mi convince in quell'impianto, non lo so. Infatti adesso in questi giorni sto usando il 440, vediamo se lo sento meglio, perché col Galaxy mi arriva molto basso, vediamo un po'. Appunto, poi vediamo un po', dai, prova con quell'altro apparato, può darsi che ti arrivi meglio. Allora, questa è la prima rotatoria, seconda cos'è? No, qui passo io, lasciatemi passare, che ho tutta la mia precedenza, che fa Marco! Marco, caro, dopo ti do un bacio. Si sta preparando, Marco. Natalino, ciao Natalino, dopo tanto ci sentiamo. Purtroppo più di così non posso alzare, sono con un vacco. Vabbè, io devo venire a Sassari per sentirti, altrimenti no, non c'è niente da fare. E c'ho l'antenna troppo bassa, però disturba, non, se è alto disturbo le televisioni, non va bene, no? Ciao, va bene, dai, ciao, va bene così. Vedrò di provvedere. Già risolviamo, tranquillo. Dice a fare un lavoro, ma poi adesso è tempo buono. Ho fatto le mani così, a tempo buono, primavera di nuovo, vediamo di fare qualcosa come ti ho detto io. Ci innesto un altro tubo, saliamo ancora di un paio di metri al Torrino, capito? Si elimina quel tubo fine e si mette uno grosso, così l'antenna non oscilla, niente, e si solleva di altri due metri e vedrai che il problema è risolto. Beh, mettiti lì ai pantaloni, brutto porco. Ia, le 8:20 ancora, forse non finisce più l'ora mi. Vabbè dai, meglio fare tutto senza fretta comunque. Caro, come ti sento bene oggi? Come sei forte Valerio. Ah, che bello. Ma a parte che tu sembri già a Sassari d'Alghero, figurati. Veramente, eh. Adesso sto facendo lineare, altrimenti poi mi sento male. Va bene, dai. Comunque sto per arrivare, sono qua, dove sono? Boh, è un semaforo, non lo so. Già passata la caserma dei Charlie? Sì, sono qui a Eurospin. Vabbè, quindi stai iniziando a salire, dai. 5 minuti e si è arrivato a casa, già me ne accorgo quando sei sotto, inizio attenuato, non si sa mai che mi grebbi tutto. Sveglia. Natalie. un pugno prima, ma detto, mi sa che vengo, poi no, non ce la faccio. Dobbiamo avere una risposta però, cioè, non credo che ormai riesca a venire. Antonello, ci sei? No, lascialo stare tranquillo, non sai che c'ha questo problema lui. Vai, lo metti in ponte. Prima o poi già verrà, già vuoi ti dica. Problemi per i posti non ce n'è per il traverso. Ho ordinato un tavolo più grande, per fare più comodi, quindi. Non so se Antonello Barracuda, ma Gianni è sparito, Gianni! Farà giù col cane! Se giro lungo li fate in varo piano. Io non ho fare bisogno, ne ho salgo su, cosa ci fa? Ammatta la melodia del bit. Che pure faccio su, mentre passi le bisogni, come si fa se li bisogni su il biglio è nerazzo. Allora, se lo stare in giro al buio, no, poi mi tira lui direttamente al portone, una volta che Filippo ha fatto la pipì e i suoi bisogni, vuole rientrare, vuole far bene a casa, si sdraia nel lettino, sotto la TV lì, dopo l'imbiato mi accusa leggeramente dei lasciati. Che orecchie di porco Si addormenta sotto la televisione e più la tiro volume più russa. Mi rimuovo in murendi voi scimmi adesso già alla porta mia moglie. Beh, anche lui esce sempre a quest'ora, è uscito un pochino prima, ma questo gli ha fatto tutto, vuol dire che aveva necessità di uscire. Sono io alla porta per comodità alle 7:30, capito, che poi rientra alle 8, già pronta la cena, non sto lì a rompermi le scatole. Dove sei, Valì? Stavo a arrivare qui alla rotatoria vicino a casa, eh. Allora inizia a scendere, dai. Raga, io inizio a scendere, così ci stanno a Valerio, dai. Ci vediamo lì, allora vai, già sapete quello che dovete fare, ok? A dopo, ciao! Ciao, io aspetto che venga Gianni. Sì, Gianni ho sentito io alle 8 al tabacchino, capito? Ciao, a dopo. Ciao. Siete un bel anticipo, mi. E vabbè, io sono una macchina valida dentro casa, mi faccio due chiacchiere e poi vediamo, dai, ok? Ci vediamo dopo. A da voi. Ciao, che spendo. Io questa foto la fa. Brucciaglielo quell'apparato, brucciaglielo. Aspetta con lineare, io adesso te lo brucio. Figurati, già sei forte qua, già sei in fondo scala qua. Dai, ci sentiamo dopo, ciao. Comunque là quando, 8:30 là, come siete rimasti? 8:30 lì? Al locale? Non lo so, ma... Sì, Natalino mi dice di sì, 8:30 lì. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Ehi, ciao.